saluto con grande piacere i nostri ospiti, l'avvocato Lohner che è qui vicino a me, il professor Dobrilla che è tornato in questa biblioteca a presentare il secondo volume di Medicina e dintorni, era venuto ancora tempo fa per il primo felicissimo libro e anche per un libro scritto con Frangipane. Sì. Ecco, che aveva gettato anche un po' di ironia finalmente anche sulla salute, sulla medicina. E li ringrazio perché soprattutto anche l'opera del professor Dobrilla, non solo quale medico e scienziato, ma anche come persona impegnata civilmente che in questi anni continua a regalare alla società consigli di grande livello, ma cercando anche di semplificare il messaggio di quello che può essere il mantenimento della salute e soprattutto saper discernere e capire quelle che sono le strade giuste da percorrere per tutelarsi, il che è un grande messaggio che spesso, ecco, può indurci in inganno invece quello che viene propinato. Quindi questo è un impegno civile che le riconosciamo e per il quale la ringraziamo. Poi la ringraziamo chiaramente perché sceglie anche la Biblioteca Provinciale Claudio Augusta per portare avanti il proprio messaggio, oltre anche ad altri canali. Chiaramente voglio ricordare le iniziative della Comune presso il Liceo Scientifico nella giornata di venerdì. Quindi questo servizio di informazione costante che viene fatto. E poi attraverso anche il giornale, chiaramente il quotidiano Alto Adige, che pubblica ogni settimana delle informazioni, delle analisi di situazioni che ci toccano tutti. E lo ringrazio anche perché sa sempre dare delle informazioni precise, ma anche con una, ogni tanto anche con dell'ironia, che serve a sdrammatizzare dei momenti un po' difficili che tutti noi possiamo attraversare nella nostra vita, ma che insomma forse vanno affrontati a volte, se possibile, ecco sì, con un po' più di sorriso e forse meno paura. Se si conoscono le cose, forse si può affrontare anche meglio, con meno ansia. Questa è una piccola biblioteca, lo vedete voi stessi, abbiamo però 75.000 volumi, di cui 50.000 in magazzino, ma sono tutti identificabili dal nostro sito. Se avete bisogno di ulteriori informazioni, sulla sedia lasciamo sempre un piccolo opuscolo che raccoglie informazioni sui nostri servizi, indirizzi, telefono, mail e quant'altro. Come dicevo prima, le nostre iniziative vengono anche messe su internet, perché, per cui chi non ha occasione di frequentare con regolarità le nostre iniziative può ascoltarle e scaricarle da internet. Basta iscriversi per accedere a certi servizi, ma non è obbligatorio, comunque ci teniamo perché abbiamo bisogno di sostenitori, è un ente pubblico a cui si accede gratuitamente e liberamente, ma più siamo e più siamo contenti anche di poter essere utili alle persone. Ecco, io vi ringrazio, spero di rivedervi anche prossimamente. I nostri appuntamenti sono sempre pubblicati su delle cartoline e se avete piacere possiamo spedirvele anche a casa via mail. Grazie mille e buona serata. Come diceva la nostra direttrice, i temi della salute sono temi che ci riguardano tutti, ovviamente. La salute è uno dei beni di assoluta priorità, di assoluta importanza nella nostra vita, non solo per la qualità della nostra vita, ma anche per l'esistenza stessa della nostra vita, perché se viene meno la salute, purtroppo noi sappiamo che cosa ci attende. Quindi sono temi fondamentali. E la salute è strettamente legata ovviamente alla medicina, perché noi sia per la prevenzione, sia per le cure, per la terapia, ci affidiamo ovviamente ai medici, ci affidiamo alle strutture ospedaliere, ci affidiamo alla medicina. Ora, è evidente che su questi temi c'è una profonda necessità di informazione, tanto più che c'è stata naturalmente una grande evoluzione anche in quelle che sono le aspettative della gente. La gente vuole conoscere, la gente vuole sapere. Molti anni fa forse il sapere e le informazioni sulla medicina circolavano solo fra gli addetti ai lavori, fra i medici e il paziente, era una specie di personaggio muto che non solo non parlava ma neanche ascoltava, perché spesso non gli spiegavano neanche che cosa aveva. I tempi sono naturalmente cambiati, profondamente mutati, l'informazione è importante e l'informazione è desiderata dalla collettività, dalla gente, da noi tutti. Noi desideriamo essere informati, desideriamo sapere, desideriamo conoscere. Naturalmente questo momento storico in cui non c'è carenza di informazione, forse c'è eccesso di informazione, perché anche sui temi della medicina ci sono, c'è la rete informatica, ci sono anche pubblicazioni, con tutto il rispetto per le riviste femminili, ci sono le rubriche che sono alcune anche ben fatte, importanti, altre sono solo una specie di descrizione del gossip nazionale, ma molto spesso c'è questo eccesso di informazioni, alcune anche fatte da persone poco competenti e poco preparate. Allora, perché un libro come quello di Giorgio, del professor Dobrilla, è un libro molto importante? Perché è un libro che ci dà una informazione necessaria, di cui noi abbiamo bisogno, e nello stesso tempo ci dà un'informazione vera, un'informazione chiara, cioè i temi che il professor Dobrilla affronta prima sul giornale e che oggi sono raccolti in questo secondo volume, Medicina e dintorni 2, sono temi naturalmente che spaziano dai problemi concreti, dai problemi pratici, anche ai grandi temi della bioetica, dal testamento biologico al trapianto di organi, quindi temi che non solo ci riguardano dal punto di vista culturale, ma ci riguardano anche personalmente, perché per esempio il tema del testamento biologico è un tema che domani ci può porre di fronte a delle necessità di scelta, ci può porre di fronte a delle necessità di decisione. Essere informati, conoscere, sapere, quindi è un arricchimento non solo culturale, ma è anche un arricchimento concreto nella vita nostra, dei nostri familiari, quindi su questi temi l'informazione è importante però anche che sia un'informazione buona, una buona informazione, voglio dire. E il lavoro che fa da anni Giorgio Dobrilla, il professor Dobrilla, è un lavoro di grande importanza e di grande utilità, perché proprio ci aiuta, ci avverte, ci mette in guardia anche dalle apparenze, dalle illusioni. Spesso il malato ha bisogno anche di aggrapparsi a qualcosa, e molto spesso quindi ci sono anche delle persone poco serie o delle strutture anche poco serie che possono trarre in inganno, che possono fare più male che bene. Quindi quello che il professor Dobrilla ci racconta, ci dice, le cose di cui ci informa, sono cose che ci danno, è uno strumento d'aiuto veramente importante. Io invito tutti a leggerlo questo libro, perché molti di voi avranno già letto magari singoli articoli, però qualcuno può essere sfuggito, qualcuno non è stato colto nel suo contenuto, va letto con calma, visto con calma, e voglio dire, e non è che faccio della pubblicità a Giorgio perché Giorgio così ricaverà dei cospicui redditi, perché bisogna dire che il professor Dobrilla, oltre a fare questo importantissimo, utile lavoro per la collettività, che va a beneficio di noi tutti, lo fa anche senza ricavare alcun ricavo, alcuna redditività, lo fa, diciamo, con grande generosità, proprio come strumento che viene offerto di aiuto e di consiglio, di avvertimento alla collettività. Quindi anche questo è un dato da segnalare. Cerco di stringere, perché poi sarà il professor Dobrilla che vi spiegherà bene il contenuto del suo libro. Voglio solo dire però che un'altra qualità di questo libro è proprio la chiarezza del linguaggio. Qui non c'è nulla di fumoso in questi brevi, sintetici, ma estremamente anche esaurienti temi che il professor Dobrilla tratta, che possono andare dalle vaccinazioni, come abbiamo detto prima, alla bioetica, all'oncologia, tutti i temi che interessano naturalmente il mondo della medicina. C'è questa qualità estremamente positiva di un linguaggio chiaro, accessibile a tutti. Quella che fa il professor Dobrilla è una divulgazione scientifica che però, diciamo, possiamo cogliere, chiunque di noi può cogliere, non occorrono particolari conoscenze nel campo medico, perché la spiegazione è chiara, il linguaggio è limpido. Quindi un'altra qualità di questo libro, oltre al contenuto dell'informazione, è anche la qualità dell'informazione, come il professor Dobrilla ci spiega, come il professor Dobrilla ci chiarisce, e questo è un dato chiaramente molto importante, per cui è un ulteriore, diciamo, arricchimento che dà la possibilità di lettura di questo libro. Poi voglio concludere con un'ultima considerazione, questo libro ci dice anche chi è il professor Dobrilla, penso che sia molto conosciuto, tutti lo conosciamo, ma comunque dalla figura di questo suo impegno, che è certamente importante e appassionato, nasce anche la figura dell'autore, un medico preparato, un medico competente, un insegnante a livello universitario naturalmente, che conosce bene la sua materia. E quindi la figura del professor Dobrilla che esce da questo libro è la figura del medico come io lo vorrei sempre, e come purtroppo oggi a volte noi notiamo che ci sono delle carenze. Noi sappiamo tutti che purtroppo oggi il responso sulle sorti del paziente è affidato più alle macchine che all'uomo spesso, per cui il paziente rischia nelle strutture ospedaliere, dove ci sono strumenti costosissimi, elaboratissimi, tecnologicamente molto, molto riusciti, però il paziente rischia di essere un numero, e l'occhio del medico, invece di posarsi sul paziente, magari dargli anche quella tastatina, quella palpata che lo rende più partecipe, lo sente più partecipe, il medico spesso legge le carte e basta, e questa è una carenza certamente della medicina di oggi. E per questo io apprezzo il lavoro del professor Dobrilla e la persona del professor Dobrilla, perché è un medico non d'altri tempi. Dire che è un medico d'altri tempi sarebbe ingiusto verso molti medici dei nostri tempi, ma è un medico come deve essere il medico, un medico che si avvicina al paziente in una specie di, a me piace questa espressione che è stata usata tra l'altro nel progetto di legge sul testamento biologico, l'espressione alleanza terapeutica. Ecco, questa mi piace, questa espressione. Ci deve essere fra il paziente e il medico in questo momento, e nel momento spesso in cui il paziente è terrorizzato, ha paura, soffre, ci deve essere questa forma di armonia, di possibilità di contatto. L'alleanza terapeutica deve essere un incontro fra alleati, un incontro in cui il paziente si sente difeso, si sente tutelato. E naturalmente è chiaro che molto spesso cosa succede? Spesso che oggi nella società odierna si considera il progresso della medicina magari è diventato un po' apparente, illusorio. Molti pensano che basta andare in ospedale e non si muore più, il che purtroppo non è vero, e il che crea anche spesso delle aspettative sbagliate, o crea anche delle recriminazioni, di rimproveri sbagliati. Lo dico perché c'è un crescere esponenziale delle vertenze anche contro i medici, eccetera, perché la medicina di oggi, che ha fatto progressi enormi, crea anche spesso delle illusioni, per cui non si dovrebbe più morire, se si muore qualcuno deve aver sbagliato. Non è certo il caso del professor Dobrilla, che naturalmente ha una carriera alle spalle luminosa e una capacità ancora oggi di competenza e di intervento notevolissima. Io questo discorso l'ho voluto fare solo per dire che questa alleanza fra medico e paziente è fondamentale. Il professor Dobrilla crede in quello che fa, e il paziente, con un medico che crede in quello che fa, finisce col credere, come è doveroso e come è giusto, anche nel medico. Adesso sentiamo le cose più importanti, più serie. L'ultima considerazione che faccio, richiamandomi a quello che diceva la dottoressa Trevisan, anche un'altra qualità di Giorgio è quella proprio di avere anche questa capacità di sdrammatizzare, questa sua capacità di affrontare anche a volte dei temi drammatici con questa venatura di ironia, con questa capacità di cogliere e di alleggerire delle tematiche spesso estremamente drammatiche. Grazie. Vabbè, buonasera a tutti, ringrazio la direttrice, la signora Trevisan, sempre gentile a ospitare cose così di promozione culturale, e penso che i soldi che ho dato all'Honor perché mi presentassi in modo, sono stati forse troppo pochi, aspettiamo la seconda rata. A cena integreremo con qualche cosa. Aspettiamo la seconda. Qui rata. Vedete indicato il titolo della chiacchierata, vedete anche in omaggio proprio la cortesia della signora Trevisan, che l'avvocato Lona ha definito pugnace. Scegliendo fra tanti aggettivi, lucinghieri che poteva scegliere, lui ha scelto pugnace, non fa niente, e gli ho messo per auspicio che questo trapasso da questa piccola sede, come volume ma intensa di attività, trovi il suo spazio adeguato in quella che dovrebbe essere il centro bibliotecario, mi pare che riunisce un po' tutte le cose. Questo è il libro. Aspettiamo. Voi vedete il primo volume, che è stato già presentato qui, abbiamo fatto una chiacchierata un anno e mezzo fa circa, e questo è il secondo. Questo secondo volume, vedete, che raccoglie, lo si sa, ma insomma lo ridico, raccoglie tutti gli articoli che sono fatti di rubriche settimanali fisse e di qualche pezzo che mi viene chiesto extra dalla direzione su argomenti che magari in quel momento hanno destato grossa occasione. Il libro, come vedete, c'ha tantissimi argomenti, è un piccolo pregio, non detto da l'owner, ma che lo dico io perché è un pregio impersonale, è che sono capitoli piccoli, analizzati in un indice analitico in fondo, per cui uno può leggere una roba che gli piace, una roba che non gliene frega niente, la salta, non occorre leggerlo una dopo l'altra, uno sceglie l'argomento che vuole. Gli argomenti sono tanti e quindi dobbiamo scegliere dal mazzo di questi argomenti, in questi tre quarti d'ora e 50 minuti di chiacchierata, soltanto alcuni. Molti altri sono presenti, altrettanto validi, ma tutto non si può fare, bisogna scegliere. Riguardo la medicina convenzionale, un omaggio a un personaggio che soltanto i medici conoscono, gli uomini di cultura, qualche uomo di cultura, ma che di solito è ignorato, mentre conosciamo benissimo, mi fate dire dei nomi, ci vanno in televisione in 5 minuti, sono gente spregevole, sappiamo tutti, questo non la conosce nessuno. Questo qui è un ungherese, si chiama Ignac o Ignaz, secondo le versioni Semmelweis, ed è un ungherese. Cosa ha fatto sto signore? Si è laureato a Vienna, era il mondo germanico, era l'attrattiva di tutti i ricercatori medici del tempo, e si specializza in ginecologia. Va a lavorare in un padiglione, in un ospedale, in un reparto di ginecologia ostetricia, fatto di due padiglioni. Nel padiglione A viene frequentato da medici studenti che sono anche, come si usava un tempo, medici settori, facevano le autopsie, studiavano e poi andavano in reparto. Il reparto B è gestito soltanto ostetriche che non sono coinvolte per legge in autopsia, l'ostetrica non può fare settorato. Bene. Cosa ci si accorge? Ci si accorge che nel reparto A, quello fatto da medici e studenti, i numeri di decessi per febbre puerperale molto alto, 11%, cioè 11 mamme su 100 muoiono per dare alla luce il loro figlio. Nel reparto B non muore quasi nessuno, 1%. Allora si cerca di capire e Semmelweis intuisce che la differenza sta nel fatto che i medici non si lavano le mani e portano le mani contaminate in reparto. Allora, lavaggio previsita delle mani viene proposto da Semmelweis con del banale ipoclorito di calcio e impone che le pazienti vengano trattate meglio con un cambio più frequente delle lenzuola pulite. Cosa succede? Nel 46 11%, nel 47 5% di mortalità per febbre puerperale, l'1% nel 48. Immediatamente non successo tra i colleghi come succede anche oggi, ma succede ironia pesante, cosa crede sto ungherese, viene a insegnarne a noi, viene licenziato dall'Allgemeines Krankenhaus Wien, rientra in Ungheria dove è mal visto perché lo chiamano il tedesco, viene emarginato, va in depressione, forse Alzheimer, viene ricoverato in un istituto psichiatrico, viene malmenato da infermieri e muore per le percosse degli infermieri in questa clinica, isolato dal mondo e ignorato dal mondo scientifico. Ci vogliono 15 anni dopo gli studi importantissimi di Louis Pasteur e di Lister, c'è anche la listeria, è uno dei microbi scoperti a Lister, che confermano la validità dell'ipotesi di Semmelweis, e finalmente nel 1894, le scoperte sono del 1846, l'Università di Vienna si rimedia al malfatto e li intitola la clinica ostetrica. Ignazio Semmelweis, nome sconosciuto, benefattore dell'umanità. Dolcificante e cancro, è una querelle che non finisce più. Sui giornali, quelli che diceva l'owner prima, rosa o non rosa o celesti, ci sono due enti che vedete qui, due studi, quello della Feosa, gli acronimi li leggete sotto per non far perdere tempo, è uno studio danese dal 2006 all'11, l'11 quello danese. Il dolcificante aspartame, in migliaia di prodotti alimentari e chewing gum e gomme da masticare, potenzialmente cancerogeno in ratti. Se la notizia viene data così su strumenti di informazione banale, non può che terrorizzare i ratti. E io che ho messo l'aspartame nel caffè, è istintivo. C'è un doppio controllo di altri enti, fra cui ci sono la Federchimica e l'Associazione Internazionale degli Edulcoranti, che confutano questo potenziale cancerogeno dell'aspartame E a prescindere che rati e uomini non sono la stessa cosa, solo Steinbeck ha scritto uomini e topi, ma in realtà siamo due cose diverse. Nessun aumento di linfomi, leucemie e neocerebrali, la dose consentita come additivo 40 mg per chilo di peso corporale. La campagna antiaziendale ingiustificata oppure è un omertoso silenzio per dare il riscontro economico che c'è? Quindi è un dubbio che la popolazione giustamente ha. Motivi di tranquillità plausibili. La dose nei ratti sono impensabili per l'uomo, sono stati usati 50 volte la dose abituale ad infinitum, cioè da quando i ratti sono stati cominciati si è cominciato a nutrire i ratti con l'aspartame, si è andato avanti tutta la vita con dosi 50 volte superiori, pari a 10.000 gomme americane al giorno. Voi immaginatevi se cominciamo a mangiare ci va. Quindi il discorso scientifico, se non scende a terra sul pratico e mi dice quando, come, perché, diventa soltanto o ansiogeno o elemento di facile illusione. 300 bustine di aspartame al giorno, neanche i miei amici caffettari che fanno 14-16 tazze al giorno riescono ad avvicinarsi a dose di questo genere. Naturalmente l'attenzione è stata tratta anche su altri edulcoranti che vedete che hanno delle potenze incredibili. Questo acesulfame potassio è 200 volte più zuccherante, più dolcificante del saccarosio e via dicendo. Insomma, manca nessuno fino a questo momento per le dosi abitualmente, ma neanche per dosi lontane da quelle abitualmente assunte, che i dolcificanti possono fare il cancro. Quindi se uno gli piace il caffè. Dice quello di destra in fase 1, Giorgio, ho terrore del cancro e non so più che dolcificante usare. Per l'ansia che ho fumo 40 sigarette al giorno, dove sta scritto se fumi ti viene il cancro. E quell'altro dice, ma scusa Sandro è forcato naturalmente, non potresti semplicemente eliminare lo zucchero e smettere di fumare? Chemioterapia anticancro, qui c'è un atteggiamento antiscientifico dilagante. Chemioterapia è uccidere l'uomo, la tossicosi è. E invece, come dice giustamente l'oncologo serio che dirige il reparto di oncologia a Bolzano, non si tratta di accanimento terapeutico. E quando c'è accanimento terapeutico, quell'oncologo è sanzionabile. Perché non può esserci un accanimento terapeutico come guida di un ammalato tumorale. Disinformazione, timori comprensibili ma infondati. La guarigione di quasi tutti i pazienti con cancro testicolare. Se non viene un ritardo enorme, quelli che hanno un cancro testicolare e siccome sono influenzati ad avere un testicolo solo, sono anche degli stalloni fantastici. Remissione stabile di molti tumori ematologici. Remissione stabile o lunga sopravvivenza per il cancro del seno. 20-30 anni in fase di metastatizzazione vivono ancora. Naturalmente c'è anche il caso grave che muore subito o muore presto. Guarigione o lunga sopravvivenza in cancro del tratto gastrointestinale, di cui posso dare conferma personale, guarigione o lunga sopravvivenza nel cancro della prostata. Voi sapete che anche nel cancro della prostata, dico per i miei cosessuali qui presenti, il PSA ha rappresentato un grande progresso diagnostico, ma lo stesso inventore, lo scopritore del PSA, lo giudica un disastro. Perché se applicato individualmente salva vita, se lo screening fatto col PSA non fa che creare allarmismo, si guadagna poco in sopravvivenza e si spende un'enormità di costi da un punto di vista sociale. Effetti collaterali ci sono, molti minori rispetto a anni fa, perché è chiaro che uno, se devo morire per fare la chemioterapia, un conto, se ho un po' di mal di testa, vivo 10 anni in più, mi tengo il mal di testa, ovviamente. Il peggioramento è spesso dovuto al progredire del cancro e si dà invece notizia del peggioramento perché è legato alla chemioterapia. Ci si dimentica che stiamo trattando un cancro che va avanti, quindi spesso il peggioramento, il malstare, non è legato al fatto che ho fatto la chemioterapia, è legato al fatto che la malattia prosegue, nonostante la terapia, il suo percorso. Quando è accanimento terapeutico? Quando il trattamento peggiora la qualità della vita, gli aguzzini, senza allungarlo o persino accorciandola, quando gli effetti collaterali sono molto peggio della malattia di base, che è difficile che lo siano, e sono fatti da frequenti infezioni, rischio emorragico, malnutrizione, soddisfa solo la curiosità del curante e peggiora le speranze. Beh, non dovrebbe esserci, ma qualche volta c'è. Qualche volta c'è in malafede, solo perché uno è superficiale e cattivo, perché un medico può essere bravo e essere cattivo d'animo, succederà anche fra i medici, la selezione non crea i santi che fanno medicina e tutti quelli che fanno altre facoltà sono cattivi, ci sono i pessimi medici anche fra gli oncologi. Il problema è che qualche volta è il giovane attratto dalla nuova terapia che può forzare a farla perché c'è l'entusiasmo di far del bene, però non va bene neanche in questo caso, perché il punto centrale, l'obiettivo centrale è quello di far del bene a un paziente che già ha un cancro. Medici come Aguzzini, nazisti nei lager sono molto improbabili, ci saranno sicuramente, perché la statistica ci dice che fra tanti, già vedete l'articolo che uscirà domani, in cui racconto di un medico radiato dall'ordine che per un ragazzo di 27 anni di Catania con affetto da tumore cerebrale incurabile si è fatto abbindolare e è andato in Albania, dove questo medico italiano radiato dall'ordine per 30.000 euro mi pare, roba del genere, lo ha trattato con alte dosi di bicarbonato, valore commerciale una lira di bicarbonato. Vabbè, ci sono anche questi, vanno radiati dall'ordine, l'ordine è un po' pigro spesso in queste cose, dovrebbe essere un po' più solerte, e vanno soprattutto condannati e messi in galera. Vi ho messo questo per correttezza intellettuale, per correttezza concettuale. C'è un'inchiesta pubblicata da questo signore qua che dice che 3 oncologi in USA su 4 rifiuterebbero la chemio se fossero malati. Allora, per onestà intellettuale non potevo non darvi questa notizia, ma se questo fosse vero, questi 3 che non si farebbero quello che fanno gli altri dovrebbero essere sanzionati. Perché se io non farei io la stessa cosa che voglio fare ad altri, vuol dire che sono colpevole. Quindi ve l'ho dato perché c'è questo dato di letteratura, ma è una roba impensata. Ma è una cosa seria questa? No, è una cosa seria. Solo che questi qui non sono ancora lì che fanno i medici, insomma. Ecco. È in America, quindi noi in Italia siamo molto migliori. Screening di massa, ve l'avevo accennato già prima, questa vedete l'immagine in bella, bella come immagine, brutta come natura, questa è sta castagna che è la prostata che è diventata bitorzoluta e che fa tutto quello che fa. Nel 2010 il Ministero auspica uno screening di massa con PSA, ho fatto altre volte, scusate se mi cito perché sono coinvolto emotivamente, che i medici devono fare i magistrati e i politici, si devono avvalere di consulenti specifici, no? Ci ricordiamo il caso di Vela che nasce perché un magistrato pugliese che voleva fare carriera politica in Alleanza Nazionale, poi non lo ha voluto, è andato a finire da un'altra parte, ha imposto per legge la terapia di Vela. Bene. Allora, dice che impone questo screening di massa. Dialogo sui farmaci, rivista ultra indipendente, seria, onesta, tanto è vero che col 2013 non si pubblica più, perché viveva solo degli abbonamenti fatti dalle ASL, le ASL devono stringere le cose. Ieri ci è capitato a Venezia, ero andato a vedere una paziente che moriva, e una signora vedeva che aveva la bocca aperta, ha chiesto una garza per umidificarla perché questa non riusciva a bere neanche dalla cannuccia, e questa è data dall'infermiera e dice: scusi, mi dà una garza che umidifico le labbra, dice, mi dispiace, non ci può essere spreco di materiale. No. Questa è cronaca di ieri, ieri sono tornato da Venezia ieri e questa l'ho vissuta personalmente ieri. Bene. I rischi di uno screening di massa non motivato, un eccesso di diagnosi, un eccesso di trattamento, un'abnorme spesa sanitaria e una vita angosciosa. Perché è vero che c'è il cancro della prostata che brucia in un anno, ma è una rarità assoluta. Tutti i centenari sono portatori di una prostata che ha cancro. Quelli che sono morti a 100 anni e hanno fatto l'autopsia hanno trovato cancro prostatico. Quindi è un cancro istologicamente maligno, raramente aggressivo, specie se si riconosce, ma l'individuo che ha altri fattori di rischio va seguito con PSA, va biopsiato. Quelli che fanno semplicemente uno screening di massa a una popolazione sempre più giovane è pazzesco, perché se noi facciamo il PSA a popolazione di quarantenni troviamo sicuramente dei PSA allarmanti. E cosa facciamo? Non dimentichiamoci che un trattamento radicale della prostata azzera la sessualità, un trattamento parziale la può conservare, quelli che riescono a fare l'intervento che conserva un po' di sesso sono dei numi tutelari che pagati in nero fanno questo intervento, l'istituzione pubblica non li fa, eccetera eccetera. New England Journal of Medicine 2009, ripetuto da Lancet 2009, due riviste di riferimento molto serie. Vedete, 70, e danno delle indicazioni un po' strane. Allora, qui su una popolazione di quasi 80.000 pazienti seguiti per 10 anni, metà con controllo del PSA periodico e metà no. La mortalità bassa e non c'è nessuna differenza tra gli screenati e i non screenati. ma quelli screenati che fossero stati screenati e che hanno avuto il PSA e che non sono morti come gli altri, hanno vissuto questi 10 anni in angoscia. Quindi qual è il costo dell'angoscia? Lancet dice una cosa un po' diversa: seguiti per anni, metà PSA e metà no, la mortalità sarebbe il 20% in meno in pazienti sottoposti a PSA. Quindi vuol dire che certi soggetti avranno bisogno di un'attenzione particolarmente periodica e attenta e altri no. Quindi non possiamo fare un discorso di screening. Intervista a questo signor Holbin, che è quello che ha inventato il PSA, The Great Prostate Mistake, il grande errore della prostata, un disastro per la salute pubblica e per di più costosissimo. Non è contro il PSA che sto parlando, è contro il PSA indiscriminato, costoso, che si cerca per ragioni varie, anche per ignoranza, non solo per interesse, di praticarlo in maniera aspecifica anche in una popolazione di poco vecchia, giovane. Sicuramente, che comporterà sicuramente l'accertamento di PSA positivi. Informazione o promozione? Questa l'avevo fatta vedere nel Gianni col 2001, col primo volume. Cellulite, infezione batterica cutanea con la risipila, 200 casi per 100.000 persone. Ben diversa da questa cellulite qua, che non è un'infiammazione, che non si può trattare con niente, eccetera. Naturalmente, per dare cosa, talora definita anche come pannicolopatia ed ematofibrosclerotica, perché più facciamo il nome difficile, più aumentiamo la promozione. Somatoline Cosmetic. Ho avuto tentativi di corruzione dopo aver pubblicato questo articolo, non preoccupatevi, ho avuto solo in omaggio molto talco mentolato. È una specifica, che così viene definita, specifica crema cosmetica attiva studiata appositamente per contrastare le adiposità tipiche dell'uomo, pancia e maniglie dell'amore, con una sola applicazione alla sera. Quindi quelli come si chiama? Te lo do dopo in confidenza. Allora, quelli di noi maschi che sono un po' in sovrappeso sanno che una piccola ondolata verso le 23 si alzano e sono dei levrieri. Allora, di fronte a questa roba qua, c'è un'istanza del Codacon, associazione di consumatori che vedete sotto, per non perdere tempo con gli acronimi. La Manetti a Robert viene sanzionata di 490.000 euro per pubblicità ingannevole, pratiche commerciali scorrette. Fa ricorso e questi 490.000 euro diventano 200.000 euro, che fanno 400 milioni di vecchie lire. Pubblicità continua imperterrita, perché? Perché il ricavo dell'azienda nel 2009 era 260 milioni di vecchie lire. Allora, chi se ne frega? Chi getta un oggetto dei treni, vi ricordate anni fa, sarà punibile con 1.000 lire di ammenda, quando le 1.000 lire non ci sono neanche più. Quindi le aziende pagano, andiamo in America, in USA, multa ad aziende tra il 2004 e il 2008 di 2,7 miliardi di dollari contro un utile di 245 miliardi di dollari. Allora, che sanzioni, che deterrente è punire l'azienda per pubblicità ingannevole quando ricavo molto più? Me ne strafrego, infatti la pubblicità della Somatoline eccetera continua imperterrita. Sospese dalla Francia, sorprese. Cellulite, pancette, promese, come sempre, avendo avuto un evento politico più importante di noi nel 1789, è un po' più avanti di questo paese. Allora, i politici chimici e procedure liporiduttive, la liposuzione, laser, infrarossi, ultrasuoni, radiofrequenza, mesoterapia, in quanto inefficaci e più rischiosi della liposuzione chirurgica, sono state abolite per complicazioni gravi, infezioni gravi, sedicenti ematomi. A favore di questo tutte le unioni di consumatori, guardate chi è contro, i produttori di queste cose. 100 macchinari e 100.000 interventi cosmetici in Italia ogni anno per una spesa di 10 miliardi di euro, per una roba che se non fa, o non fa nulla o comunque può far male. Vi ricordate la Laura Antonelli, no? Mito erotico come finita. Arriviamo a altro capitolo ben noto a voi, perché ci imperversa ogni giorno. Col Bifidus Actis Regularis e il Lactobacillus Gradefensis, uno Activia e uno Actimel. Questo signore, Lannutti, che non faceva il politico, se lo fa, ma è sempre stato un attento a favore della e che si intende di conti soprattutto, perché era un responsabile dei servizi bancari e finanziari. Bene, promozione, questo, il nome lo dice lunga, acti regularis, regolazione dell'intestino, e questo rinforzo delle difese immunitarie. Chi potrebbe essere contrario a migliorare le nostre difese immunitarie? Nessuno, vorremmo tutti essere ultra immuni. Motivi dell'interrogazione. Questo signore Didier Francese, su una importante rivista internazionale, dice che gli yogurt imbottiti di probiotici assunti per molti anni sono corresponsabili di obesità epidemica nei bambini e tante altre cose. Allora l'associazione dei consumatori dice e fa presente: già ritirata la richiesta di autorizzazione per l'uno e per l'altro di questi due prodotti dall'autorità europea sulla sicurezza alimentare, che non è molto generoso con i consumatori, perché ritiene insufficiente le prove fornite dall'azienda. La Danone si impegna a non riportare più in promozione i benefici per la salute, basta correggere il tiro con la terminologia, cosa già fatta in Francia. Danone già condannata nel 2010 per pubblicità ingannevole sulle difese immunitarie, perché non c'è nessuna dimostrazione che queste difese immunitarie vengono attivate. Perché sarebbe come se io dicessi a un altro tennista che è qui in sala che io ho battuto Federer e lui mi direbbe, questo tennista che si chiama Faustini, mi direbbe: ma dove sta scritto che hai battuto Federer? Se non gli porto la documentazione. La Pira, Sole 24 Ore, pubblicità di Danone già censurata in USA e sanzione di 35 milioni di dollari, 70 miliardi di vecchie lire, per aver millantato benefici clinici su transito in difesa eccetera eccetera. Tutta questa roba si sa? È successo qualcosa? No, questa roba imperterrita va in televisione. Diciamo fa male, è dannosa oppure diciamo innocua? Allora, le rispondo così: lei ha fatto il pieno di benzina, ci butta 4 tannic dentro nell'abitacolo? No, perché il serbatoio è pieno. Allora, se lei mi dice, se lei fa qualche mese di probiotico non succederà niente. La diarrea da antibiotici, 80% dei bambini hanno un po' di caccamola nei primi giorni. Se lei prende i probiotici sembra che si guadagnino dalle 12 alle 24 ore, interrompe prima. Il problema è che questo martellante della gente che comincia a fare perché crede di migliorare le difese immunitarie, e allora non ha senso che me le migliori in gennaio, in febbraio o no, se ci credo la prendo sempre e si vendono vagonate di roba. Questo è anche divertente, così facciamo sorridere, diceva la Trevisan che ogni tanto faccio sorridere, qui sorride, è un preparato vaginale che viene preso per bocca per sbaglio. Allora, 46 segnalazioni di intossicazione per assunzione orale di Tantum Rosa, dove sta scritto soluzione cutanea per genitali esterni, e contiene un benzo infiammatorio. Il tantum rosa, siccome esiste anche quell'altro tantum verde, viene scambiato, tanto si legge poco, ci si fida di quello che si vede. Prima della campagna promozionale per il tantum rosa c'erano 0,5 casi di intossicazione al mese, dopo la campagna promozionale 13 casi al mese. Nuovo spot aziendale, c'è scritto in grande, solo per uso esterno. Errori in medicina, sono diversi dalla malasanità. Trapianto di organi prelevati a soggetti HIV positivi, Firenze. Setticemia nosocomiale in neonati, Foggia. Ingessatura del braccio sano, mentre la frattura nell'altro braccio, Cosenza. Decesso di paziente per porta aperta dell'ambulanza, si rompe la porta a cascafuori, Bari. Pap test positivo arrivato 6 mesi dopo il decesso per uterino, dove? A Trento. 28enne dimesso, morto per infarto, scambiato per strappo muscolare, Pisa. Ho messo le località perché non pensiamo a dire che siamo in un'area felice, eccetera. Siamo in un'area, da un punto di vista della sicurezza seria, un po' meglio di sicuro, ma l'errore c'è. Cittadinanza attiva calcola 4.000 casi all'anno di mala sanità, perché questa è mala sanità, non è un errore. Incidenti dovuti solo a mancata assistenza, incompetenza, errori individuali? Spiegazione istintiva, ma sbagliata e insufficiente, perché spesso non si tratta di male sanità, si tratta di errore. Allora, dice il New Yorker, non basta impedire, mi piace moltissimo questa frase, per cui la leggo, non basta impedire ai cattivi medici di far del male, ma bisogna impedire che ciò accada ai bravi medici. E allora vi ho fatto questa scenetta inventata. Macchina da scrivere o il computer sono rotti, non c'è una riparazione tempestiva perché non c'è soldi, l'amministratore, l'impiegato è sabato sera, di due tecniche di laboratorio una è assente e non viene sostituita per qualsiasi motivo, ci capitava in reparto, normalmente bastava una incinta, avevamo un'infermiera in meno, non è che avevamo un'infermiera sostituita. Doppio lavoro di quella rimasta, quindi doppio stress, responsabilità, il flacone deve essere studiato. Invio urgente di flaconi per trasfusione in sala operatoria. Il gruppo sanguigno viene scritto a mano perché la macchina da scrivere è rotta. La scrittura di quella che scrive non si capisce bene. Poco leggibile, incompatibilità del sangue, decesso del paziente. Di chi è la colpa? È dell'economo che non ha provveduto ad avere un pronto e tempestivo riparo della macchina, il direttore sanitario che se ne frega perché quando quello non capisce che si può tirar via una persona che spazza, due persone spazzano un corridoio, una sta male, quell'altra farà un po' di più. Ma per Dio, nella tipizzazione del sangue, sala operatoria, lì una persona può essere decisiva, no? È colpevole il direttore generale che non se ne occupa, l'assessore che ha proposto il direttore generale che dovrebbe essere indipendente e viene proposto invece dal politico, il primario di laboratorio che non ha colpa in quanto diretta, ma che ha colpa perché in qualche modo doveva controllare? La tecnica, la chirurgia, l'anestesia. Quindi l'errore individuale è difficilmente attribuibile a una persona, e quando andiamo a fare i conti sugli errori nell'aeronautica, ah beh, c'è questo presente, l'ho messo per Arnaldo Lona. Se il giudice fosse giusto, forse il criminale non sarebbe l'unico colpevole. La ricerca dell'errore di sistema e non del solo pilota, nel caso di disastri aerei, ha ridotto del 50% gli incidenti. Quindi se invece che dare la colpa a uno vado alla ricerca del perché quell'uno ha sbagliato e individuo responsabilità multiple, ne andiamo fuori. Altrimenti saremo sempre che al massimo uno viene sanzionato. Non ha nulla a che vedere con l'errore la mala sanità, che è delinquenza comune, che è fatta di ambienti inadatti, attesi inaccettabili, umanità sindacale, la televisione che dice mi raccomando la profilassi ogni mese dovete vedere, poi ti prenoto un anno dopo. Umanità scadente, errori professionali anche se in buona fede, perché se noi passiamo col rosso, anche se siamo in buona fede, pensiamo sia verde, ci multano. Mentalità dipartimentale in ospedale è assolutamente aleatoria. L'attuazione di terapie non validate, promozioni non meritocratiche, la regola. Ci sono eccezioni, ma questa è la regola. Sanzioni tiepide dell'ordine dei medici e della magistratura. Delinquenza comune in medicina. Questa è mala sanità, questa è delinquenza. Atti invasivi, lesivi per il paziente, non fatti in buona fede, non per curarlo, ma per vantaggi economici. Ce ne pieni, abbiamo parlato anche l'anno scorso, del medico singolo o dello staff. Peggio se associazione per delinquere. Associazione per delinquere significa un atto di mala sanità operato da medici, paramedici, amministrativi e falsi validi. Guardate questo caso qua, l'affare Civello, che è molto emblematico. Diagnosi per intervento per cancri inesistenti. Sollecitato l'intervento o imposto l'intervento, personale, vuoi che ti operi io? Paga 8.000 euro per evitare la tesi, lo dico anche in lire che mi piace di più, 16 milioni di lire per evitare le attese. Asportazione per errore di un unico rene in una che faceva dialisi e in donna che aveva metastasi epatiche. Registro, viene indagato e si trova interventi segnati ma mai eseguiti. Viene contestato sti reati, viene accusato per lesioni gravi, concussione, truffa, falso ideologico, abuso ufficio, associazione. Chi era questo chirurgo? Il primario chirurgo toracico di Ragusa, noto per aver operato Papa Wojtyła. Allora dice il Papa, mi immagino che direbbe il Papa, punire specie che è colpevole di reati sicuro, perché è uno che ha lasciato traccia, è uno che ha fatto emergere con franchezza alcuni problemi che i prelati avevano in ambito di pedofilia e non si è nascosto dietro la buccia d'arancio, e allora avrebbe detto chi è colpevole di reati stiamo attenti, anche se hanno operato me, cosa che è evidente perché quello che ha operato il Papa è diventato quel delinquente che abbiamo visto. Il problema in tutte le cose, dai pompieri ai giornalisti ai medici, che le mele marce vanno eliminate perché fanno male e guastano anche le buone. Questo è il punto centrale. Medicina e società. Due spunti e poi siamo verso la fine. Lo dico non per i colleghi medici che ho visto volentieri questa sera qui, ma per i non medici, che il mesotelioma, pleurico o non pleurico, ma quello pleurico in particolare, è un'ira di Dio. È un tumore che in un anno fa morire tutti sostanzialmente, salvo rarissime eccezioni. Drammatico. Ci sono delle regioni in cui si è stata particolarmente acerba questa situazione, nel Monferrato, nel Pavese e anche nella zona di Trieste e del Goriziano. Il problema aggiunto è che c'è una latenza tra l'esposizione e lo sviluppo anche di molti anni, per cui è difficile collegare. Se uno 10 anni fa era sotto un capannone di etani, non si ricorda più che ha giocato da ragazzo, che la pallina da tennis è andata via e ha toccato con mano, non se lo ricorda perché sono passati 10 anni. La sopravvivenza media, come vedete, 12 mesi, l'uso professionale è 70, c'è quello non professionale, ma c'è anche un 20% di cui non si sa proprio perché gli è venuto questa tumore. Bene. I produttori di eteri hanno negato per anni un nesso causale. Solo nel 92 l'uso dell'Eternet è stato bandito per legge, ma non seguito da pronta ed efficace rimozione. Non era tanto il problema di rimuovere queste tettoie qui, che sono integre, ma le tettoie sfilacciate e gli sfilacciamenti, le particelle che volano, che fanno il tumore. Se l'Eternet non è sfilacciato non è dannoso. In Germania 16 casi per milione, per darvi una quantità. In Italia 21 casi per milione, l'Inghilterra 40 casi per milione, questo soltanto nell'arco del 2000-2003. Come va a finire la cosa? Il solito rompiscatole di Guarinello, che si occupa di quello che ha cominciato ad accusare Del Piero perché Zeman gli aveva detto che faceva gli anabolizzanti. Guarinello nel 2009, morti per mesotelioma pleurico 1600 operai, 50 casi di mesotelioma all'anno. Gli imputati sono un magnate svizzero, non so se producesse cioccolato o meno, ma produceva Eternit di sicuro, questo barone belga, e la pena inflitta nel 2012, si può passare a Norum, 16 anni per disastro e ambiente doloso, risarcimento miliardario a chi rinunciasse alla denuncia e a future azioni legali. Di 8 comuni viene accettato questo ricatto, da 3 e 5 hanno continuato la battaglia. Disabili. Scusa, per lettere, posso dire una cosa? Sì. Che è uscito il fatto anche che morivano molti familiari, oltre agli operai che lavoravano nella fabbrica. Perché no? Perché questi venivano con le tute. Che avevano la polvere dentro. Portavano la polvere e le donne lavavano le tute e quindi oltretutto questa mortalità enorme si stesa anche, no? Sicuramente ai lavoratori che le tute, i caschi eccetera erano fonte di ulteriore una cosa pazzesca, no? Pazzesca. Disabili, ne abbiamo parlato anche nel volume 1, se vi ricordate, di quella coppia che non si era accettato di sposare, che il vescovo di Prato non aveva voluto sposare perché non sarebbero stati capaci di fare sesso in modo normale. È successo un scandalo enorme eccetera. E poi addirittura, per dimostrare che naturalmente la critica non è generica, però il cappellano ha accettato di sposare lui, di fare da testimone lui in matrimonio civile in comune, perché questi poveretti erano credenti e non volevano fare peccato al di fuori del matrimonio. Disabili invece che handicappati, ci laviamo la coscienza con troppo poco, invece che dire handicappati e disabili che cosa cambia? Cambia poco. Esempi deprecabili: occupazione di parcheggio riservato, malcelato fastidio in ristoranti, invito a trovarsi degli hotel più accoglienti, più adatti a loro, matrimonio negato perché so è quello che ho detto prima, toilette inadeguate in locali pubblici. Pensiamo, adesso ce n'è qualcheduno in più e qualche cosa si sta facendo meritoriamente. Vi immaginate uno sulla carrozzella che deve usare la turca, che è difficile per un anziano usare la turca. Ascensori mancanti o non fruibili. Guardate come le norme però non bastano. Predellini sui bus esistenti a Roma nel 70%, ma inaccessibili nel 99% delle fermate. Però se andiamo a vedere la norma troveremo che tutti i bus hanno il predellino adatto per. Quindi fra 100 anni, quando leggiamo la storia, che voluti che erano, pensa che in Italia avevano già fatto una legge che tutti i bus avevano i predellini, ma nessuno poteva usarli perché non venivano fuori. Rispettare i disabili non è pietà o generosità, ma rispetto ai diritti altrui e condizio sine qua non di una nazione, se vuol chiamarsi civile. Salute e carceri in ottica medica. Non posso non dirvi che in questi pezzettini un po' di denuncia sobria ma umana, che non ha nessun secondo fine, io dal giornale non ho mai avuto non soltanto ostacoli, ho avuto soltanto facilitazioni. Quindi, direttore Faustini, che c'è qua, pubblicamente voglio riconoscere questa libertà assoluta di quello che scrivo. 206 istituti carcerari previsti per 43.000 detenuti, ce ne sono quasi il doppio. I suicidi in carcere 46 nel 2008, 70 nel 2009. Agenti carcerari 40.000, medici, infermieri e psicologi assistenti, numero insufficiente. Previsione del Consiglio dei Ministri 2010 di 2.000 nuovi agenti e nuove prigioni. Ma l'organico sanitario? Tempo preferito dei politici è sempre il futuro e mai il passato. No, faremo nuove faremo intanto o facciamo l'indulto, queste robe qua. Riflessioni sanitarie, io lo vedo in ottica sanitaria, mi immagino di dover andare a defecare in una stanza di 8 persone su un vaso da notte, per 10 anni, per 15 anni. Allora, è giusto che il recluso paghi? Sicuramente sì, certezza della pena? Sicuramente sì, ma anche dei tempi del giudizio, verrà con me Arnaldo Lone. È giusto che mens sana in corpore sano, ma è vero anche l'opposto, che il corpo è sano se la mente è sana. Il detenuto non può avere questa facilità, perché il corpo, la mente sana non può averla, ma il corpo sano, perché deve pagare un fio, ma il corpo sano dobbiamo garantirglielo, perché l'ulcera sanguinante di un carcerato è l'ulcera sanguinante dell'avvocato o del sottoscritto. Mens critica per sovraffollamento, igiene, intimità negata, sopravvivenza, è tollerabile che l'assistenza medica almeno del corpo sia di regola scadente e tardiva? Cioè, questo non è un problema di uso, perché altrimenti dal carcere verranno fuori dei farabutti peggiori di quelli che sono entrati, perché avranno avuto la sensazione che sono proprio abbandonati da Dio e dagli uomini. Chi viene scarcerato quale fiducia avrà nella società che non gli ha garantito neanche le cure mediche? Dalle emorroidi più banali alla depressione. Medicina non convenzionale. 5 minuti di riflessione. Omeopatia ultimissime da Londra. Da sempre l'omeopatia e relativa copertura delle spese del Servizio Nazionale Inglese ha visto favorevole e in positiva la Casa Reale Inglese. I grandi promoters sono la Casa Reale. Contraria sempre, da sempre, la British Medical Association, che, come i colleghi che sono qui sanno, una società molto seria, che non ha nulla da invidiare neanche alla società americana. Bene, nel 2007 questo professore della London University dice: se usati parametri di efficacia come per le terapie convenzionali, bando va quindi, se si considerasse, va messa al bando all'omeopatia, comunque non deve essere messa a carico del Servizio Nazionale e non devono essere spesi fondi per ulteriori ricerche. Parlamento inglese, 3 anni dopo, nomina un comitato tecnico bipartisan, cioè sia il votato sia dai Labour che dai Tories. Omeopatici non andrebbero commercializzati, inaccettabili ulteriori ricerche per dimostrare l'efficacia, perché fatte già da tanti anni e sempre inconcludenti, anche lì la lira, anzi la sterlina, comincia a essere stretta. Nel 2010, essendo fortemente influenzati da questi enti importanti, l'ospedale di Merano apre in medicina alternativa, con cui non ho nulla in contrario, non è che sono contrario alla medicina, sono contrario alle folle e alle bugie. Guardate cosa dice questo nel 2010, in febbraio, ho fatto la fotografia così com'è del sito del Parlamento inglese, che questo è un carattere che io non uso, è proprio per dirvi quello che sta scritto, non ho modificato nulla, però per tradurlo in breve, questa parte qua dice che non c'è nessuna superiorità sul placebo, che non è da poco, perché solo ignoranti si offendono di essere tacciati di effetto placebo. L'effetto placebo è un effetto straordinariamente importante, ma bisogna conoscerlo. E il meccanismo di usare non è plausibile. Nella seconda parte il comitato conclude che non sono giustificati ulteriori studi per dimostrare l'efficacia specifica. Questi sono enti seri, bipartisan, scientifici, cioè, guardate cosa succede. È lunga, ma non potevo non farvela vedere. Mi arriva fra le mani, l'ho pubblicato anche su Alto Adige, questo comunicato stampa con carta intestata dell'ASL di Merano. Medico famoso della serie tedesca Tramschiff visita l'ospedale di Merano, alias dottor, questo Nick Wilder, o Wilder, se non so come si dice in tedesco, alias dottor Wolf Sander, che è uno che si occupa di banca ed è anche campione di surf e fa l'attore, cioè fa la parte del medico. Bene, si è trattato di una vera visita VIP quella che ha ricevuto il responsabile della medicina complementare, dottor Pistelli, la settimana scorsa, l'attore Walder, noto soprattutto al pubblico tedesco come medico della serie delle crociere, il dottor Ra è anche come nota figura pubblicitaria signor Kaiser di un'assicurazione tedesca. I contatti con il sessantenne dipendono dalla moglie che è nata a Renon. E poi, dopo un intervento all'Anca presso la clinica locale Santa Maria, al simpatico medico televisivo è venuta un'idea: vuoi stilare un libro delle sue esperienze con la malattia. Dottor Wilder è rimasto positivamente impressionato, non la British Medical Society, l'attore che fa il medico, è rimasto positivamente impressionato dalla struttura con le relative attrezzature e dalla professionalità del team. Egli stesso si è complimentato con i responsabili, il dottor Cristian, e il mondiale, l'ex campione mondiale di windsurf è stato subito riconosciuto, soprattutto dalle visitatrici di sesso femminile. Piccola goccia amara per i fan, anche se Wilder racconta che durante le riprese di Downshift spesso se gli capita che qualcuno gli chieda dei veri consigli medici. Che lui distribuisce. Infertilità. Infertilità è un problema che noi maschi, di cui noi maschi abbiamo sempre colpato le femmine, come sempre ingiustamente e in maniera prevaricatoria, al 50% grosso modo è colpa del maschio, è colpa della donna, poi non è colpa di nessuno, insomma, è così. Prove di infertilità maschile diventano, sono un po' più problematiche, come sapete, lo stress cronico in donne momentaneamente sterili incide moltissimo, come altre volte abbiamo avuto modo di dire, ci sono, lo stress della non fertilità è tale che si adotta il bambino, appena adottato il bambino la donna resta incinta, perché non c'è più lo stress e l'esigenza. Finalmente c'è la fecondazione in vitro, Roberts, Edwards, premio Nobel, una rivoluzione. Trovate questo tipo di invito e di sollecitazione. Infertilità, castello romantico e cure non convenzionali, tutto, omeopatia, fitoterapia, agopuntura, fiore di Bach, eccetera. Soggiorni settimanali, 3.000 euro a persona, quindi se l'unione è ancora solo uno tra un uomo e una donna e non c'è un menage a trois, sono 6 milioni di vecchi. Disponibile omeopatia e tutte le altre CAM, trattamenti ossidanti e chelanti, lavaggi vaginali, idrocolonterapia, tubi da tutte le parti con lavaggi spaventosi, incentivi a relax e a sesso giornaliero nel castello romantico, insoddisfatti non rimborsati, provare un'altra settimana. Questo non è che me l'invento per stupire, non voglio neanche farlo per stupire e far sorridere, questa è una roba grave perché c'è della gente che va. C'è il figlio di un mio collega medico romano che le ha dato fuori di testa, fa robe di questo genere ogni settimana. Il volgare adagio triestino, che non posso dirlo in dialetto, è il sesso non vuol pensieri. E qui in questo castello probabilmente pensieri non ci sarebbero. Religione. Testamento biologico citato, sto finendo. Il testamento biologico citato da Arnaldo Valle è un problema su cui nessuno ironizza, nessuno ha la verità assoluta, ciascuno è responsabile di quello che pensa. Il problema è che chi pensano di aver diritto a un testamento biologico non lo impone a nessuno. Chi pensa che il testamento biologico non si debba fare, come la Chiesa Cattolica Italiana, invece prevarica, perché anche quelli che non credono, non seguono questa religione o un'altra religione, o sono indù, eccetera, devono subire questo tipo di imposizione. Ma la domanda è una imposizione che viene dal cielo o viene dagli uomini che interpretano queste disposizioni? Questo è interessante perché voi vedete come si comporta diversamente la Chiesa in Spagna e la Chiesa in Germania. Legge 2001, vietato comunque lo stop nutrizionale. Stop nutrizionale che era stato rifiutato da Papa Carlo Wojtyła perché non aveva accettato la gastroscopia, giustamente, che io praticavo nel mio ospedale e che un intervento, lui era tanto stupido, lasciatemi andare, disse, nella casa del Signore, e giustamente è stato lasciato andare nella casa del Signore. Bene, intransigenza con divieto di funerale religioso a chi disobbedisce. Welby, Englaro e tal sono stati, gli è stato rifiutato il funerale religioso, ma non è stato rifiutato il funerale religioso per Pinochet, per mafiosi pluriomicidi, qualcuno di quali è andato a finire anche in una tomba privilegiata. Ben diverso dalla Spagna, dalla posizione della Chiesa spagnola e della Chiesa, e credo che la Chiesa sia la Chiesa, non può, no, vuol dire che sono gli uomini che hanno una visione diversa. Si auspica in Spagna che è un paese non meno cattolico dell'Italia, anzi, il paziente non si mantenga in vita a mezzo di trattamenti sproporzionati e che non si prolunghi abusivamente il suo processo di morte. Ma guardate, ancora di più interessante quanto decide la Germania. Cardinale Lehmann, cattolico, è il presidente delle chiese evangeliche Koch. Modulo congiunto su carta stampata insieme, come quella della ASL, ritenute lecite dagli alti prelati, non debbono essere intraprese nei miei confronti misure di prolungamento della vita se è attestato che ogni misura è senza prevedibile miglioramento e dilazionerebbe solo la mia morte. Secondo punto. Trattamenti medici, così come un'assistenza premurosa, debbono essere indirizzati a ridurre i dolori, l'agitazione, la paura, l'affanno, la nausea, anche quando non si possa escludere che il necessario trattamento antidolorifico possa abbreviare la vita. Importantissimo. Secondo, terzo, io vorrei poter morire, questa è una roba da firmare nel modulo congiunto del cardinale, cioè, vorrei poter morire con dignità e pace per quanto possibile vicino e in contatto con i miei parenti, le persone care e nell'ambiente che mi è familiare. Io vi dirò la mia opinione, perché trovo molta Caritas, molto cristianesimo in questa posizione qua. Problema della pillola lo risolviamo rapidamente. La breve storia, sapete che questa è la pillola abortiva. Non è la pillola del giorno dopo e non è la pillola anticoncezionale, io sto qui a annoiarvi con le differenze. La storia è questa, sto signore tiene Balier, la nominata RU43, si tratta del mifepristone, nel 2005 l'Organizzazione Mondiale della Sanità l'approva e la include tra i farmaci essenziali. Anche qui non significa la pillola perché devi abortire, significa la pillola che se hai deciso di abortire, evento sempre doloroso e se si può da evitare perché non fa piacere a nessuno, ma se lo fai non lo fare col Lago de Calza ad Albaredo d'Adige o a San Michele Extramura. In vendita da anni in paesi laici come Svezia, Norvegia, Danimarca, Finlandia, in paesi religiosi Spagna, Austria, Germania e Benelux. Spagna e Austria... No, vi riporta alla differenza di progetto e la differenza di contenzioso che c'è. In Italia le prime esperienze nel 2005, all'ospedale Sant'Anna di Torino, come sapete, avversati in tutti i modi, disinformazione sui media. Come sempre avviene, la politica se ne appropria e abbiamo delle posizioni politiche che prescindono da tutto. Qualcuno vuole solo far piacere alla Chiesa, qualcuno è per conto suo, ma nel contesto delle stesse formazioni politiche c'è una ridda di posizioni che sono queste. L'AIFA, che è nominata dal governo Berlusconi, è fatta da persone serie, erano serie anche quelli di prima e sono serie anche quelli di adesso, anche se non meritavano di essere mandati via, ma sono stati sostituiti da funzionari serie. Bene, questo quindi è un ente ufficiale di controllo sui farmaci italiano. La RU si cura, da fare però solo in ospedale, non è la pastiglietta, il chewing gum, entro 3 settimane. L'onorevole Cicchito del PDL, dell'AIFA ci si deve fidare. L'onorevole Mantovano del PDL, la R4D è un pesticida antiuomo, la civiltà viene sconfitta, stesso partito. L'onorevole Meloni, meno invasiva dell'intervento, quindi favorevole. La Presti Giacomo, nessuna obiezione, purché in ospedale. L'onorevole Fazio, PDL anche lui, invito all'uso, ma contrari chi? Cota e Zaia della Lega Nord. Radicali, liberali di sinistra, parametri di giudizio medici non di altro tipo e sono favorevoli. Quindi vedete come la politica si appropria in modo indebito ma anche confuso. Viene da pensare, vedendo anche le cose, che le donne sono un momento più sensibili e donne anche dello stesso in fin di conti sono favorevoli perché si rendono conto che tra questo e l'aborto chirurgico c'è una bella differenza. Prima problema di fondo non è incentivare l'aborto, che è comunque una scelta dolorosa. Ma se l'aborto viene programmato o imposto, pensate quante volte viene imposto dai papponi, eccetera, che esso non sia attuato in condizioni di pericolo per la donna da mammare senza scrupoli e in assenza. Perplessità. Legittimo, dice il Vaticano è contrario, e Mancuso dice è legittimo, perché il Vaticano è legittimo che pensi, ma vorrebbe sapere se ci sono tanti Vaticani o se ci sono quello di Roma, ma protesta sei meno vivaci per 3 morti al giorno sul lavoro, migliaia di bambini morti ogni ora di sete di fame, vendita di armi che non viene stigmatizzata con la stessa enfasi e che è la causa del mondo di quello che è. Sarà difficile. Vito Mancuso, che voi conoscete tutti, è un cattolico intelligente, anticonformista, scomodo per il Vaticano, dice: mi chiedo perché e non so rispondere. Perché la stessa posizione di rinuncia è impositiva anche per quelli che non seguono alcuni dettami, sono per i profilattici, contraccettivi, diaframma, aborto, eccetera. Dice questo uomo illuminato, credo che sia stato ricordato come esempio di persona seria anche da personaggi che non hanno nulla a che vedere con la Chiesa, e dice: certe cose non si dicono perché si sa che bloccano la carriera. Questo è un male gravissimo della Chiesa. Si cerca di dire ciò che piace ai superiori, si cerca di agire secondo quello che si immagina sia il loro desiderio. Ci sono preti che si propongono di diventare vescovi e ci riescono. Ci sono vescovi che non parlano perché sanno che non saranno mai promossi a sede maggiore, alcuni che non parlano per non bloccare la propria candidatura alla cardinalato. Allora, quello che mi sembra che possiamo condividere, senza fare nessuna critica specifica, è che un conto è un concetto di spiritualità e di religione, un conto è che avremo bisogno, anche per chi crede, di un atteggiamento abbastanza uniforme, perché se sono spagnolo è una roba, se sono tedesco è un'altra, se sono maltese è un'altra. Per la cronaca, il paese più reazionario in tutti i sensi, in cui non si può fare niente, è Malta, il grande paese di Malta. E questa, per finire, per ringraziarvi, c'è Obama che, dopo averlo letto, dice: questo libro mi ha fatto molto riflettere, ho fatto bene a comprarlo, fatelo anche voi. Tu hai fatto una relazione molto esauriente e molto bella. Volevo dire una cosa che può essere utile, che può interessare. A proposito della medicalizzazione, che a volte può essere un eccesso, le cause anche non di mala sanità, che, come tu hai spiegato, è un'altra cosa. Io racconto una vicenda vera. Una ragazza di 19 anni cade da cavallo durante una gita a cavallo e riporta una leggera contusione allo zigomo. Ha un momento così, non perde i sensi, ha un momento un po' così di poco equivoco, non è neanche, diciamo, una perdita dei sensi, eccetera, diciamo una leggerissima commozione cerebrale. Arriva l'elicottero, la prende, la porta all'ospedale. All'ospedale cosa fanno? Le fanno subito tutti gli esami, compresi quelli del sangue, e dicono: è un po' bassa di potassio, e diamolo del potassio. Questa non occorreva né portarla in ospedale, né portarla tantomeno con l'elicottero. E purtroppo sul lettino che la trasporta viene messa una fiala di potassio che non è allo 0,01 ma è allo 0,1. Le danno il potassio, la ragazza muore immediatamente. L'anatomopatologo che fa l'autopsia mi dice: no, non aveva niente, una cosa incredibile. Questo è l'eccesso di medicalizzazione: l'elicottero, il trasferimento in ospedale, l'esame del sangue, non aveva niente, non aveva neanche perso i sensi. Quindi tu vedi che a volte questo è... Ma da aggiungere, ma quello lì che ha iniettato la cosa, no, c'è un processo dove ci sono medici che vengono indagati, infermieri, eccetera, perché chi ha messo diciamo il contenitore di potassio sbagliato con una concentrazione molto maggiore, chi l'ha applicata, quello è il fatto giudiziario che è seguito, che poi si è risolto alla fine con la condanna di uno, e poi è stato assolto anche quello alla fine. Da notare che i cloruri di potassio è usato in America per far morire il condannato a morte, quindi non è una robina che non si sa, è uno di con la concentrazione più è chiaramente con la concentrazione. Questo è una prima cosa. Poi sul testamento biologico volevo solo fare una considerazione. Tu hai detto benissimo: noi siamo uno dei pochi paesi che non ha una legge sul testamento biologico. Noi abbiamo avuto un progetto di legge che è stato approvato dal Senato, era stato messo velocemente su una corsia preferenziale perché c'era la Englaro. C'era il caso Englaro e si voleva intervenire con la legge per impedire che, come è successo poi, si staccasse la spina, nel senso che la legge, secondo il progetto governativo diverso da quello dell'opposizione, che è stato poi tra l'altro ispirato soprattutto da senatore Ignazio Marino, uomo che io considero di grande cacchera, era poi il presidente della Commissione Sanità del Senato, questo progetto, che è stato approvato al Senato, ma non è più andato alla Camera perché l'Englaro è morta, allora a nessuno è interessato più mandare avanti questa legge necessaria. Noi siamo dei pochi paesi che non hanno una legge sul testamento biologico. E naturalmente la grande differenza fra il progetto dell'opposizione e quello governativo è che nel progetto governativo, a parte altre cose, a parte importantissimo il fatto che nel progetto governativo si dice che si può anche disattendere il parere del medico, cioè quindi da la mentre invece nel progetto dell'opposizione si dice che il parere medico deve essere poi vincolante, perché se no che senso ha chiedere il parere ai medici e poi non esegue. Comunque la grande differenza sta nel fatto che nel progetto governativo la idratazione e l'alimentazione forzata non sono sospendibili, perché non sono considerate terapie che si possano sospendere, sono necessarie alla integrità, all'esistenza vitale del soggetto e quindi non si può interrompere né l'alimentazione né l'idratazione, che comporta naturalmente che buona parte di questi casi finiscono necessariamente col fatto che non si può staccare, diciamo tra virgolette, la spina, perché se tu devi forzatamente idratare e alimentare un soggetto che è in condizioni vegetative, il problema è questo. Ecco. Ma la cosa grave è che noi si è fermato tutto, non abbiamo ancora la legge. Sì, ma c'è ancora queste considerazioni anche legali e filosofiche, diciamo, sono ineccepibili, ma come i colleghi che sono qui sanno, poi sono cose speciose, perché normalmente si fa questo nei reparti di rianimazione. Non per cattiveria, per umanità, perché i parenti stessi, ma lo sapeva. Ma tu lo sai benissimo. L'importante è che non si sappia, questo è il problema centrale. C'è stata una verifica su 3.000 casi negli ospedali italiani, su 3.000 casi si è accertato che per il 70% c'era stato un eccesso di morfina. Questo è un problema che non è più quello del testamento biologico, no, ma coinvolge la cosiddetta eutanasia passiva. Perché? Perché si dice, ma se per lenire il dolore diamo un po' più di morfina, sempre allo scopo di lenire il dolore, punto 2 della chiesa germanica, eccesso di morfina, punto 2 della chiesa, porta al decesso del paziente, nulla di grave, nulla di censurabile, nulla di rimproverabile. Ma il più doloroso è che non è il fatto che inquieta, è il fatto che si sappia, il fatto che si faccia, no, l'importante è che sia, esatto, questo non si deve sapere, ma poi dopo va bene lo stesso, però il testamento biologico ancora oggi noi non abbiamo delle disposizioni, per cui tutto è lasciato a questo rapporto medico-paziente, familiari, eccetera, ma non c'è nulla di preciso, nulla che consenta di dire dobbiamo fare così perché c'è una legge che ce lo prescrive, quindi fai da te. Ti assicuro che mia moglie sa benissimo cosa fare. Grazie. Ma però, mi raccomando, farlo al momento giusto, sì, non prima. Non 10 anni prima. Perché sai, il rischio poi di dare alla moglie gli strumenti è questo, l'idea, che la moglie decida autonomamente anche in caso di non assoluta necessità. Ma sei tu che dai queste idee morbose, va bene. È vero. Se qualcuno vuole chiedere qualcosa. No, volevo. Prego. Io in famiglia tengo gli scontrini, no? Adesso mi pare. Scontrini di che? Scusi. Scontrini fiscali, le medicine, no? E adesso mi viene in mente che sto somatoline l'ho visto. Mi ha colpito il fatto, non il somatolino, che non sapevo neanche. No, ma lei non ne ha bisogno, dovrebbe avere uno. Ma tu non hai le maniglie dell'amore, non mi sembra, non hai le maniglie dell'amore. Donne, e cosa mi è rimasto colpito? 58 euro, no? Insomma, non so. Ma quello che adesso mi viene in mente è che nello scontrino è scritto farmaco. Ne deduco, essendo scritto farmaco, sia scaricabile, no? No, perché lei intanto non lo trova neanche in un prontuario normale. Se lo trovassi in un prontuario normale non sarebbe. Sì, ma che sia scritto farmaco. Sì, è possibile. Ma metta caso che per aver scritto farmaco questi abbiano preso 1.000 lire di multa. Se ne fregano e continuano a scrivere farmaco. Ma io sono più indignato che sia scritto farmaco di uno che va a comprare 58 euro questa roba pensando che mettendo sulla pancia si sveglia con la pancia senza. Perché? Sono le donne però. Sì, ma guardi, i maschietti non ma scherzano. Ma confessa che ti fai anche tu una spalmatina la sera, no? Confessalo. Posso fare una domanda? Hai parlato prima di pubblicità ingannevole dei farmaci, però secondo me, non so se... Scusami, non sono sento. Questo problema, c'è anche un'altra pubblicità che è corretta, ma vengono pubblicizzati dei farmaci potenti alla stregua di qualsiasi altro prodotto di consumo. E secondo me non è etico, ad esempio anche la vecchia aspirina, ci sono dei prodotti a base di aspirina che per esempio nei bambini è stata tolta perché può dare la sindrome di Reye, può dare, ma anche negli adulti perforazioni intestinali, eccetera, alterazioni della coagulazione. E lì invece la propaganda era come una cosa che uno si deve comprare ogni volta che ha mal di denti, mal di testa, roba così. Dicendo poi, fra l'altro, può avere controindicazioni, sì. Non parla neanche di effetti collaterali, che invece sì. Sono quelli. E secondo me non è etico, secondo me dovrebbe essere. Allora, quello che dice il dottor Dordi è perfetto, però di questo ne ho parlato proprio personalmente col procuratore Rispoli. Allora vi riferisco l'esito. Com'è possibile che sia? Allora, questa è la risposta del procuratore e avremo l'avallo di Lohner, che di legge ne capisce. Dice che se non c'è una denuncia da parte di una persona che ha avuto un documento da quella roba che ha comprata, l'ufficio la procura, non so se è vero, te lo chiedo a te, cioè Rispoli non si può muovere, per questo dice che fa passare la pancia. Però se uno ha comprato la roba, ha fatto 3 mesi di terapia, si è disseguato 15 euro per 8, quello che fa, e denuncia la truffa, perché allora forse la procura si può muovere o qualcuno. Però vi dico subito, se anche fosse vero e poi ce lo conferma, vi immaginate la pensionata di 60 anni che voleva essere un po' più piacente perché forse voleva risposarsi con un nuovo marito e che fa la denuncia contro la Manetti e roba, si trova una pool di avvocati che digni e niente in confronto, Ghedini, collega amico del dottor Lohner, e niente in confronto. Voi vi immaginate il cittadino che fa una causa contro una multinazionale, di fatto sono impuniti. Ci piaccia o non ci piaccia? Sì, poi ciò non toglie che il pubblico ministero, quando gli arriva una notizia criminis, detto così, con latinorum, può sempre aprire un fascicolo. Questo, la notizia criminis certo significa normalmente che un cittadino lamenta di aver subito un danno o di essere stato danneggiato da un reato, però il pubblico ministero può anche trarre la notizia criminis anche da una comunicazione di un giornale, della stampa, il pubblico ministero. Si pensi che in Italia, non dico Bolzano, ma in Italia, ancora oggi si utilizzano le lettere anonime come notizia criminis, e se arriva una lettera anonima si chiamano i carabinieri e si dice di fare un'indagine. Quando nella Repubblica Veneta, per procedere in base a una lettera anonima, ci voleva il parere favorevole di 7 membri del Consiglio dei 10, che era un autorevolissimo consiglio, quello che decideva anche poi in temi veramente quanto riguardava la vita e l'integrità delle persone. Nella Repubblica Veneta ci voleva il parere favorevole di 7 membri del Consiglio dei 10, mentre da noi arriva una lettera anonima che non si sa quindi da chi è partita, perché è partita, quali inconfessabili motivi di vendetta, di ritorsione ci sono magari all'origine. Il Ministero, se vuole, prende la lettera anonima, chiama i carabinieri e dice indagini e rapporto, il che non è insomma un grandissimo esempio di civiltà sotto il profilo giuridico, per conto mio. Ma comunque cerchiamo, direi che la conclusione di questa bella serata, grazie all'amico Giorgio, quale può essere? Cerchiamo di star sani, ecco. questa sembrerebbe una conclusione accettabile per tutti, o no? Condivisibile da tutti. Cerchiamo di star sani. Accettabile.